Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Durante il ballo di fine anno scatta il germe dell'amore tra Natasha e il principe Andrei. Questi la chiede in moglie, ma stabilisce con lei un patto, quello di separarsi per un anno, in modo da mettere entrambi alla prova con i propri sentimenti. E mentre i genitori di Natasha accolgono le richieste con piacere, il vecchio padre di Andrei ne resta fortemente infastidito. E su questi avvenimenti si chiude la terza parte del secondo libro. Ora, la successiva si apre invece sulle vicende di Nikolai Rostov, il fratello di Natasha, che continua a servire nel reggimento di Pavlograd. Siamo nel 1809 e Nikolai si trova molto bene nell'esercito e anzi teme il momento in cui dovrà tornare a casa nel vortice della vita, pieno di affari dissestati e da assestare, di conti, di amministratori, di discussioni, di intrighi, con le relazioni, la società, l'amore di Sonia e la promessa fattale. Ma nella primavera del 1810 la madre gli scrive, informandolo che la situazione economica della famiglia è quanto mai critica. E Nikolai si decide così a chiedere una licenza e torna a casa. Il padre e la madre erano come un tempo, soltanto un poco invecchiati. Di nuovo c'era in loro una certa inquietudine e a volte un certo dissenso che non esisteva prima e che proveniva, come Nikolai apprese ben presto, dal cattivo stato dei loro affari. Sonia aveva già 20 anni, aveva smesso di imbellire e non prometteva più di quanto fosse già in lei, ma anche questo bastava. Petia e Natasha sorpresero più di tutti Nikolai. Petia era già un gran ragazzo di 13 anni, bello, allegro, intelligente e chiassone, e già la voce gli si cominciava a mutare. Davanti a Natasha, poi, Nikolai restò a lungo meravigliato e rideva guardandola. Ella non pareva punto una fidanzata innamorata, lontana dal suo fidanzato. Era uguale, calma, allegra, proprio come prima. E questo stupiva Nikolai e lo spingeva perfino a considerare con una certa diffidenza quel fidanzamento con Balkonski. Non credeva che la sorte di lei fosse già assolutamente decisa, tanto più che non aveva visto il principe Andrei con lei. Gli pareva sempre che qualcosa non andasse in quel matrimonio. A casa Nikolai cerca di occuparsi di affari, ma non ne capisce nulla e il solo gesto di cui è capace è quello molto signorile e che commuove sua madre di stracciare teatralmente una cambiale, annullando così il debito che i Drubetskoi, madre e figlio, hanno con loro. Dopodiché si mette a occuparsi con grande passione di una cosa del tutto nuova per lui, la caccia con i cani. Già le prime gelate mattutine imprigionavano la terra inumidita dalle piogge autunnali. Già la verzura si staccava col suo verde chiaro dalla terra bruna, calpestata dal bestiame, dai campi dove s'era raccolto il grano d'autunno e dalle stoppie color giallo vivo del grano di primavera, inframmezzate alle strisce rosse del grano saraceno. La lepre aveva già perduto a mezzo il pelo, le volpi giovani cominciavano a disperdersi e i lupicini erano più grossi di un cane. Era il tempo migliore per la caccia. Il 15 settembre, quando il giovane Rostov la mattina, in veste da camera, diede un'occhiata fuori dalla finestra, vide che era la più bella giornata che si potesse avere per la caccia. Il cielo pareva liquefarsi e scendere senza vento sulla terra. La terra, nell'orto, nereggiava e luccicava come i semi del papavero e a poca distanza si confondeva col lenzuolo umido e opaco della nebbia. Nikolai uscì sulla soglia bagnata e coperta di fango. Si sentiva un odore di foresta autunnale e di cani. Milka, una cagna nera pezzata, con la schiena larga, con gli occhi neri sporgenti, vedendo il padrone si alzò, si tirò indietro, si accucciò come fanno le lepri e poi inaspettatamente diede un balzo e andò a leccargli il naso e i baffi. Un altro cane, un levriero, vedendo anche lui il padrone, si slanciò verso la porta da un vialetto fiorito dove stava, inarcando il dorso e, drizzata la coda, si stropicciò alle gambe di Nikolai. Si udì in quel momento il grido inimitabile dei cacciatori, che riunisce in sé le note di un basso profondo e di un tenore acuto. E da dietro un angolo della casa venne fuori Danila, il capo bracchiere e cacciatore, grigio e rugoso, coi capelli tagliati a ferro di cavallo all'uso ucraino, con una lunga frusta ricurva in mano e con quell'aria di indipendenza e di disprezzo per il mondo intero che si trova soltanto nei cacciatori. «Che cosa ordinate, eccellenza?» domandò. e due occhi neri, lucenti, guardarono di sotto in su il padrone che taceva. «Ho mandato Uvarca ad ascoltare, all'alba», disse con voce di basso, dopo un momento di silenzio, «e ha detto che è passata nella riserva di Otradnoje e che urlavano laggiù. È passata, voleva dire che la lupa, della quale sapevano entrambi, era entrata coi lupicini nel bosco di Otradnoje». Avuta l'assicurazione di Danila che i cani erano pronti, Nicolai ordinò di sellare i cavalli. Ma mentre Danila stava per uscire, entrò a rapidi passi nella stanza Natasha, ancora da pettinare e da vestire, in un grande scialle della bambinaia. Petia veniva correndo insieme a lei. «Vai?» disse Natasha. «Lo sapevo. Sonia diceva che non sareste andati, ma io lo sapevo che con una giornata come oggi era impossibile non andare». «Andiamo», rispose di malavoglia Nicolai, che quel giorno, avendo intenzione di fare una caccia seria, non voleva prendere con sé Natasha e Petia. «Andiamo, ma soltanto per lupi. Ti annoierai». «Lo sai che questo è il mio più grande divertimento. Danila, fa sellare i cavalli», disse Natasha al cacciatore. I cavalli avanzavano per i campi come su di un tappeto di piume, sguazzando ogni tanto nelle pozzanghere quando attraversavano le strade. Il cielo nebbioso continuava ad abbassarsi insensibilmente ed uniformemente verso la terra. L'aria era dolce, tiepida, senza rumori. Si udiva a tratti ora il fischio di un cacciatore, ora lo sbuffare d'un cavallo, ora un colpo di frusta o il guaire d'un cane che non camminava nelle file. Quando ebbero fatto un miglio, incontro alla brigata dei Rostov, apparvero nella nebbia altri cinque cavalieri coi loro cani. Innanzi andava un bel vecchio, fresco, con dei grandi baffi grigi. «Buongiorno, zio», disse Nicolai quando il vecchio gli si avvicinò. «Benone, avanti!» «Lo sapevo», disse lo zio. Era un lontano parente, non ricco, vicino dei Rostov. «Lo sapevo che non ci avresti resistito e hai fatto bene a venire. Benone, avanti!» Era questo un modo di dire favorito dello zio. I cani furono riuniti in una sola muta e lo zio e Nicolai cavalcarono a fianco. Natasha, avvolta negli scialli dai quali spuntava un viso animato con due occhi scintillanti, galoppò verso di loro. Petia rideva di qualche cosa e batteva e tirava il suo cavallo. Nicolai, avendo deciso definitivamente con lo zio da che parte si dovevano lanciare i cani e mostrato a Natasha il posto dove aveva da stare e dove non era assolutamente possibile che passasse nessuna bestia, si diresse in ricognizione lungo un burrone. Si sentì il corno di Danila che, in tono di basso, annunziava la presenza del lupo. La muta si unì ai tre primi cani e si udirono i cani urlare a distesa. Pareva che la voce di Danila empisse tutta la foresta, ne uscisse e risuonasse lontano, nei campi. Dopo essere rimasti in ascolto alcuni secondi in silenzio, il conte e il suo palafreniere si persuasero che i cani s'erano separati in due mute. Una, grande, che urlava con particolare veemenza, s'era allontanata. L'altra corse lungo la foresta, passando innanzi al conte, e con questa si udirono i gridi di caccia di Danila. E i due inseguimenti si fondevano, si confondevano l'uno con l'altro, ma allontanandosi entrambi. A un tratto, come accade spesso, il rumore dell'inseguimento si avvicinò in un baleno, come se davanti a loro dovessero da un istante all'altro spuntare le gole urlanti dei cani e risuonare il richiamo di Danila. Il lupo fermò la sua corsa, volgendo la larga testa verso i cani, impacciato come se avesse il torcicollo, e con lo stesso dolce dondolio spiccò un salto, un altro, e agitando la coda sparì sul limite del bosco. In quello stesso momento, dal limite opposto, con un urlo che parve un gemito, balzò fuori un cane, poi un altro, poi un terzo, poi tutta la muta si slanciò giù per il piano, passando dallo stesso posto dove era passato il lupo. Dietro ai cani, un cespuglio di noccioli si aprì e apparve il cavallo baio di Danila, che il sudore faceva parere nero. Sulla sua lunga groppa stava Danila, rannicchiato, curvo in avanti, senza berretto, coi suoi capelli canuti arruffati sul viso rosso e sudato. Quando vide il conte, gli brillò un lampo negli occhi. «Maledizione!» urlò minaccioso, alzando la frusta verso il conte. «Vi siete lasciati sfuggire il lupo, bei cacciatori!» E come se non degnasse di un più lungo discorso, il conte, confuso e spaventato, con tutta la collera che aveva pronta per lui, colpì i fianchi umidi e infossati del castrone baio e si precipitò dietro ai cani. Il conte, come un bimbo punito, stava fermo, guardandosi intorno. I levrieri inseguivano la fiera dalle due parti, ma il lupo si cacciò nei cespugli e nessun cacciatore poté prenderlo. Nicolai, intanto, stava fermo al suo posto, aspettando la fiera. Sapeva che nel bosco c'erano dei lupicini e delle madri. Sapeva che i cani si erano divisi in due mute, che in qualche posto stava avvenendo l'inseguimento. Faceva mille supposizioni diverse su come e da che parte sarebbe sbucato il lupo e come avrebbe potuto inseguirlo. La speranza si alternava con la disperazione. Più volte si rivolse a Dio, implorando che il lupo venisse verso di lui. Pregava con quell'ardore e quel senso di vergogna coi quali pregano le persone in un momento di forte agitazione, che però dipende da una causa minima. «Via, che cosa ti costa?» diceva egli a Dio, «far questo per me. So che tu sei grande e che è un peccato pregarti per una cosa simile, ma, per amor di Dio, fa che il lupo grosso si getti verso di me e che sotto gli occhi dello zio che guarda di laggiù Carai l'afferri alla gola con la sua stretta mortale». Vide che qualcosa gli correva incontro sul terreno sgombro. Il lupo correva avanti e saltò pesantemente un fossato che era sulla strada. Era una vecchia bestia, col dorso grigio e il ventre enfiato e rossiccio. Correva senza troppo affrettarsi, persuaso che nessuno lo vedesse. Rostov, trattenendo il respiro, diede un'occhiata ai cani. Essi stavano sdraiati o in piedi, senza vedere il lupo e senza capire nulla. A un tratto il lupo trasalì, scorgendo degli occhi umani, che probabilmente non aveva mai veduti, fissi su di lui e, volgendo leggermente la testa verso il cacciatore, si fermò. Nicolai non udiva il suo proprio grido, non sentiva il suo galoppo, non vedeva i suoi cani, né il luogo dove galoppava, vedeva soltanto il lupo, che raddoppiando la sua corsa correva via per un valloncello, senza cambiare direzione. Per prima apparve vicino alla fiera la cagna Milka, dall'ampio dorso, pezzata di nero, che sempre più le si accostava. Più vicino, più vicino, più vicino, ecco che lo raggiunge! Ma il lupo le gettò appena uno sguardo obliquo e, invece di accelerare la corsa, come faceva sempre, Milka, alzata la coda, si fermò, puntando le zampe davanti. Il rosso Liubim balzò da dietro a Milka, si slanciò con impeto sul lupo e l'afferrò alla coscia, ma nello stesso momento, spaventato, lo scavalcò. Il lupo si accoccolò, digrignò i denti, poi si rialzò e galoppò innanzi, seguito alla distanza di un braccio da tutti i cani che non gli si avvicinavano. «Carai!» gridò Nicolai, cercando con gli occhi il vecchio cane, unica sua speranza. E Carai, con tutte le sue vecchie forze, allungandosi per quanto poteva, guardando il lupo, galoppava pesantemente accanto alla fiera per tagliarle la strada. Ma dalla rapidità dei salti del lupo e dalla lentezza di quelli del cane si vedeva chiaramente che il conto di Carai era sbagliato. Nicolai vedeva davanti a sé, non lontana ormai, quella foresta nella quale il lupo avrebbe trovato sicuro scampo. Ma apparvero dei cani e un cacciatore che gli galoppava quasi incontro. C'era ancora una speranza. Un cane che Nicolai non conosceva, lungo, bruno, giovane, appartenente a un'altra muta, si gettò impetuosamente davanti al lupo e quasi lo rovesciò. Il lupo, con una rapidità che non si sarebbe aspettata da lui, si rialzò e si gettò sul cane bruno, digrignando i denti, e il cane insanguinato, col fianco squarciato, mandò un grido acuto e cadde con la testa a terra. Il vecchio Carai, coi ciuffi di pelo che gli oscillavano sulle cosce, tagliando la strada al lupo grazie a quella fermata, era già a 5 passi da lui. Come se avesse sentito il pericolo, il lupo guardò di sbieco Carai, ritirò ancor più la coda fra le gambe e raddoppiò la corsa. Ma qui il cane, Nicolai si accorse soltanto che a Carai accadeva qualcosa, si trovò in un baleno addosso al lupo e tutti e due precipitarono, con la testa in giù, in un borro che si trovava davanti a loro. Il momento che Nicolai vide nel borro i cani che lottavano col lupo e di sotto ad essi il pelame grigiastro del lupo, una sua zampa di dietro protesa e la testa spaventata e affannosa con le orecchie irte, Carai lo teneva alla gola, il momento che Nicolai vide tutto ciò fu il momento più bello della sua vita. Egli afferrava già il pomo della sella per smontare e ammazzare il lupo quando a un tratto da quella massa di cani sbucò fuori la testa della fiera, poi le zampe davanti si posarono sulla sponda del borro. Il lupo batté i denti. Carai non lo teneva più per la gola, poi spiccò un salto sulle zampe di dietro fuori del borro e con la coda fra le zampe sfuggì di nuovo ai cani, correndo innanzi. Danila galoppava in silenzio e Nicolai non l'aveva veduto né sentito finché il suo cavallo Baio non gli era passato davanti, sbuffando faticosamente. A un tratto udì il rumore d'un corpo che cadeva e vide Danila che era già in mezzo ai cani, sul dorso del lupo e cercava di prenderlo per le orecchie. Era evidente, e per i cani e per i cacciatori e per il lupo, che ormai tutto era finito. La fiera, abbassando le orecchie, faceva sforzi per sollevarsi, ma i cani le saltarono addosso da tutte le parti. Danila, alzandosi, fece un passo barcollante e con tutto il suo peso, come se si sdraiasse per riposare, si buttò sul lupo, prendendolo per le orecchie. Nicolai voleva finirlo, ma Danila gli mormorò: «Non lo fate, lo legheremo». e cambiando posizione mise un piede sul collo del lupo. Ficcarono un bastone nelle fauci del lupo, gli passarono un guinzaglio come se lo imbrigliassero, gli legarono le zampe e Danila rovesciò un paio di volte il lupo da un fianco sull'altro. Coi visi raggianti e stanchi caricarono il lupo vivo su di un cavallo che si inalberava e sbuffava e, accompagnati dai cani che gli stridevano contro, lo condussero al posto dove dovevano riunirsi tutti. I cacciatori a piedi e a cavallo si avvicinarono per guardare il lupo che, lasciando penzolare la sua larga testa col bastone infisso nella bocca, guardava con grandi occhi vitrei tutta quella folla di cani e di uomini che lo circondavano. Quando lo toccavano, scotendo le zampe legate, guardava tutti con uno sguardo selvaggio e semplice insieme. Il conte Ilya Andreich si avvicinò anche lui e toccò il lupo. «Oh, è un lupo enorme!» disse. «Molto grosso, eh?» domandò a Danila, che gli stava vicino. «Molto grosso, eccellenza!» rispose Danila, togliendosi in fretta il berretto. Il conte ripensò al lupo che si era lasciato passare davanti e al suo incidente con Danila. «Però, figliuolo, come sei furioso!» disse il conte. Danila non disse nulla e sorrise soltanto, un po' vergognoso, di un sorriso fanciullescamente mite e piacevole. A sera, Nikolai si trovava a una tale distanza da casa che accettò l'invito dello zio di passare la notte da lui con tutti i cacciatori nella sua proprietà di Mikhailovka. 5 servi, fra vecchi e giovani, corsero incontro al padrone sull'entrata principale. Una decina di donne, vecchie, giovani e bambine, si affacciarono dall'entrata di servizio per vedere i cacciatori che arrivavano. La presenza di Natasha, di una donna, di una signora a cavallo, portò a tal punto la curiosità delle domestiche dello zio che molte di loro, senza avere soggezione della sua presenza, si avvicinavano a lei, la guardavano negli occhi e davanti a lei facevano le loro osservazioni sulla sua persona, come se fosse un fenomeno in mostra, non una creatura umana, e non fosse capace di udire e di capire ciò che si diceva di lei. Lo zio smontò da cavallo all'entrata della sua casetta di legno, circondata da un giardino incolto, e, data un'occhiata in giro ai suoi servi, gridò imperiosamente che la gente di troppo se ne andasse e che si facesse tutto il necessario per ricevere gli ospiti e i cacciatori. Tutti scapparono via. Lo zio fece smontare da cavallo Natasha e la condusse per la mano su per gli scalini di legno pencolanti dell'entrata. Nella casa, che aveva le pareti fatte di tavole senza intonaco, non c'era troppa pulizia. Si capiva che il scopo degli abitatori non era che non vi fossero macchie, ma non vi si notava l'abbandono. Nell'ingresso c'era odore di mele fresche ed erano appese pelli di lupi e di volpi. Passando per l'anticamera, lo zio condusse i suoi ospiti in una piccola sala con una tavola pieghevole e delle sedie rosse, poi in un salotto con una tavola tonda di legno di betulla e un divano, e poi in uno studio con un divano lacero, un vecchio tappeto e i ritratti di Suvorov, del padre e della madre del padrone di casa, e il suo proprio in uniforme militare. Nello studio si sentiva un forte odore di tabacco e di cani. Lì lo zio pregò i suoi ospiti di sedere e di fare come a casa loro ed uscì dalla stanza. Rugai, con la schiena ancora tutta sudicia, entrò nello studio e si sdraiò sul divano, pulendosi con la lingua e coi denti. Dallo studio partiva un corridoio nel quale si vedeva un paravento con la stoffa lacera. Dietro al paravento si udivano risate e bisbigli di donne. Natasha, Nikolai e Petia si svestirono e si misero a sedere sul divano. Petia appoggiò la testa su di una mano e subito si addormentò. Natasha e Nikolai se ne stavano seduti in silenzio. Avevano i visi accesi, erano affamati e molto allegri. Si guardarono l'uno con l'altra, Natasha ammiccò al fratello e tutti e due non si trattennero più e scoppiarono in una risata sonora, senza riuscire neppure a inventare un pretesto alla loro risata. Dopo un po' di tempo lo zio entrò, con addosso un casacchino, dei calzoni turchini e degli stivali piccoli. E Natasha sentì che quel vestito, nel quale ella aveva veduto lo zio a Otradnoje, meravigliandosene e ridendo, era un vero vestito, per nulla peggiore dei soprabiti e delle marsine. Anche lo zio era allegro. Non solo non l'offesero le risate del fratello e della sorella, non gli poteva neppure venire in mente che si ridesse del suo modo di vivere, ma si unì egli stesso alle loro risate senza motivo. «Ecco qui la giovane contessina. Venone, avanti! Non ne ho mai vista un'altra uguale», disse, porgendo a Rostov una pipa con una lunga canna, mentre, con gesto abituale, ne riempiva un'altra, corta, col bocchino intagliato tutt'intorno, tenendola secondo il suo solito con 3 dita. «Tutta la giornata a cavallo, come un uomo, e come se non fosse nulla!» Poco dopo che era entrato lo zio, la porta fu aperta da una ragazza che, a giudicare dal rumore dei passi, era scalza, ed entrò, con un grande vassoio nelle mani, una donna grassa e bella, di una quarantina d'anni, rubiconda, col doppio mento e labbra forti e rosse. Con un'aria decorosa di ospitalità e una grazia attraente negli occhi e in ogni sua mossa, ella girò lo sguardo sugli ospiti e li salutò rispettosamente con un gentile sorriso. Benché fosse grassa più del comune, il che l'obbligava a fare sporgere innanzi il seno e il ventre e a rigettare indietro la testa, questa donna, la governante dello zio, camminava con una straordinaria leggerezza. Si avvicinò alla tavola, vi posò il vassoio e, agilmente, con le sue mani bianche e piene, ne tolse e dispose sulla tavola delle bottiglie, dei piatti di antipasti e delle ghiottonerie. Fatto questo, si allontanò e, con un sorriso sulla faccia, si piantò presso la porta. Sul vassoio c'erano del liquore d'erba, degli infusi, dei funghi, delle frittelle di farina nera, del miele in favi, del miele cotto e spumante, delle mele, delle noci fresche e di quelle abbrustolite e delle noci nel miele. Poi Anisia Fiodorovna portò delle conserve di frutta fatte col miele e con lo zucchero, del prosciutto e una gallina arrostita allora allora. Erano tutte cose casalinghe, scelte e preparate dalla donna, e tutto aveva l'odore, l'aspetto, il sapore di lei. Tutto ricordava la sua freschezza, la sua pulizia, la sua bianchezza e il suo simpatico sorriso. «Assaggiate, signorina contessina», diceva ella, porgendo a Natascia ora una cosa, ora un'altra. Natascia mangiava di tutto, e le pareva di non avere mai visto né gustato in nessun posto frittelle simili, né conserve di frutta così profumate, né simili noci al miele, né una gallina simile. Anisia Fiodorovna uscì. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it